È tempo di ballare l'ula hoop, di cantare hula hoop. Il cerchio gira e va come una trottola, hula hoop, hula hoop. Arriva dalle Hawaii l'ula hoop e vedrai che intorno a te il mondo gira e va come in un'orbita, hula hoop, hula hoop. È un cerchio che rotondo come un O sarebbe assai piaciuto a Giotto disegnar, far danzare nel cielo tutti quei colori, hula hoop. È tempo di ballare l'ula hoop, di cantare hula hoop. Il cerchio gira e va come una trottola, va. È un semplice cerchio che è fatto di plastica, che ti fa fare un po' di ginnastica, e con la bimba del cuore felice sarai. Giotto disegnar, far danzare nel cielo tutti quei colori, hula hoop. È tempo di ballare l'ula hoop, di cantare hula hoop. Il cerchio gira e va come una trottola, va. È un semplice cerchio che è fatto di plastica, che ti fa fare un po' di ginnastica, e con la bimba del cuore felice sarai. Ula, ula, ula, ula.